sono mai stato uno normale. Ho sempre avuto problemi a comunicare. Abituato al fatto che tutto va male, ho trovato la cura giusta per me. Frate, ma non è colpa mia se sono nato estremo. Non è colpa mia se sono nato estremo. Non è colpa mia se sono nato estremo. E non cambierò mai. Hey! Frate, non posso farci niente. Non ho scelto io di stare così. Di venire al mondo e aver imparato solo che me ne voglio andare da qui. Non è colpa mia se sono nato così. Dentro questo stato con i criminali presidenti che danno gli abbonamenti per cui hai votato di sì. Io sono giovane, non è compito mio far quadrare i conti. Qui fanno saltare i ponti e te lo confermano varie fonti. Dicono che non ce la facciamo a risalire, hanno già smesso di sperare in molti. Ma arriverà il momento in cui ci riprendiamo tutto. Il mio segnale, state pronti. Ho capito che hai vissuto cose differenti da quelle che ho vissuto io. E quello che ho capito io della vita non è quello che hai capito te. Ma non mi puoi giudicare per via di tutto quello che faccio. Forse uno straccio di motivo c'è se fumo fino a non sentirmi più il braccio. E se non ti piaccio non è mica un problema. Puoi sempre ignorarmi, non c'è bisogno di sfogare per forza la propria insicurezza sugli altri. Io mi sono sempre fatto i cazzi miei. Se così non fosse impazzirei. Vivo la giornata con quello che ho, senza speranze né falsi dei. Io non sono mai stato uno normale. Ho sempre avuto problemi a comunicare. Abituato al fatto che tutto va male, ho trovato la cura giusta per me. Frate, ma non è colpa mia se sono nato estremo. Non è colpa mia se sono nato estremo. Non è colpa mia se sono nato estremo. E non cambierò mai. Hey. Ogni giorno li sento, dicono Jamie Tights è un po' un pagliaccio. Tecnicamente è bravo, però urla troppo, si fa sempre lo stesso viaggio. Ma la gente alle mie serate ci viene anche senza l'ingresso omaggio. Sanno che per fare un po' di visualizzazioni non ho bisogno di inventarmi un personaggio. Sono onesto, questo faccio. Sputo parole fredde come il ghiaccio. Per far capire a quelli che mi assomigliano che non sono i soli a passare un momentaccio. Consumo le suole, calpesto le aiuole aspettando il sole a maggio. E con tutti i soldi del mondo avrei comunque l'attitudine da poveraccio. Non voglio abituarmi alla mia gabbia personalizzata. Ringrazio ogni giorno di non essere una persona viziata. Visto che ogni giornata qua è sempre la stessa. È da tempo che me l'hanno promessa, ma la bella vita non è ancora iniziata. Quindi giro con gli amici, gente che non crede a quello che dici. Tengo addosso cicatrici e tatuaggi per ricordare i momenti più felici. Cerco la serenità, tanto le persone morte chi me le ridà. Affronto con chi ci sta la realtà, insieme a tutte le sue estremità. Io non sono mai stato uno normale. Ho sempre avuto problemi a comunicare. Abituato al fatto che tutto va male, ho trovato la cura giusta per me. Frate, ma non è...